Italia in controluce. E la cronaca italiana, il filo conduttore che lega le storie raccontate qui su Radio 24 a Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchesi. Le chiamano psicosette, sono attive in Italia e in tutto il mondo. Ce le racconta Andrea Ferro. L'approccio è subdolo. Con volantini ed inserzioni propongono la partecipazione ad un corso nel quale si insegnano le tecniche per perfezionare la memoria e sviluppare la personalità. Il programma all'apparenza attinge da dottrine più o meno ufficiali. Poi il cerchio psicologicamente si stringe attorno a quelli che appaiono più fragili. Spesso sono ragazzi e ragazze che, impadanati al bivio dei 20 anni, sdrucciolano di fronte a prospettive incerte. Lavorano ai fianchi, giocano sulle paure e instillano nella loro mente la necessità di cambiare vita, di mollare i lacci che li terrebbero vincolati ad una condizione di sudditanza e di infelicità. Sono guru in giacca e cravatta, con curriculum incerti e carisma diabolico, con marchi ufficiali, sedi in tutta Italia e fedine penali pulite. Le chiamano psicosette. Lorita Tinelli, psicologa del CESAP, il Centro Studi sugli Abusi Psicologici, monitora da anni il fenomeno. Qual è il loro obiettivo? Sostanzialmente gli obiettivi sono due: il potere economico e anche l'ampliamento della leadership del capo. Avere sotto di sé tante persone da istruire, gestire e comandare, insomma, è già un grandissimo obiettivo. In genere, appunto, i leader di queste psicosette sono persone con caratteristiche di tipo narcisistico, e quindi il fatto di poter comandare e gestire è per loro una cosa molto importante, oltre che il potere economico, che non dimentichiamo essenziale, importante per questo tipo di aggregazioni. Sfruttano le persone in tutti i sensi possibili, perché oltre che, appunto, invogliarle, indurre queste persone a fare i loro corsi, li utilizzano per fare qualsiasi attività all'interno del gruppo. Dal 1981 è stato abolito il reato di plagio. I registri di questi gruppi si rivolgono a maggiorenni, quindi soggetti capaci di intendere e volere. Operano, insomma, ben sapendo quali sono i margini lungo i quali possono muoversi, senza correre pericoli di fronte al codice penale. Quando un genitore, purtroppo, va a rivendicare la propria genitorialità dalle forze dell'ordine, va a segnalare di non avere più contatti col proprio figlio perché sparisce di casa, quando ci va appunto a raccontare questo alle forze dell'ordine, loro rispondono che se il figlio è maggiorenne può andare dove vuole, proprio perché non c'è, insomma, anche una volontà molto spesso delle forze dell'ordine di andare un po' oltre questo genere di affermazioni. Il legame di appartenenza, in realtà di dipendenza, si accentua con pratiche di iniziazione che presuppongono pure dei rischi per l'incolumità fisica. Ma vengono proposti come passaggi naturali da una vecchia vita piena di problemi, di incertezze, di incomprensioni, a una nuova vita dove c'è un gruppo, dove ci sono degli adepti, dove ci sono degli adepti fratelli, tra virgolette, una nuova famiglia. Ecco perché soprattutto i ragazzi nella fase adolescenziale si vengono colpiti da questa nuova immagine, da questi nuovi valori, si sottopongono a qualsiasi tipo di rituale, anche a quelli più pericolosi. Ai ragazzi vengono suggeriti stili di vita particolari, quali per esempio? Soprattutto nella prima fase di indottrinamento i ragazzi vengono sottoposti a delle pressioni, a una formazione continua fatta, appunto, di pressioni psicologiche, di induzioni di sensi di colpa e soprattutto vengono alterati tutti i ritmi circadiani, ovvero il sonno e la veglia vengono alterati, e l'alterazione di questi ritmi circadiani non fa altro che creare dei grossi problemi a livello di concentrazione, di lucidità, e proprio in questo momento che si approfitta per creare, appunto, lo stile di dipendenza, la situazione di dipendenza sempre al gruppo e di fortificarla. Implotonati e sudditi di questo regime psicologico, i ragazzi ghermiti dalle psicosette vengono allontanati dalle famiglie, distruggono i rapporti con gli amici, devastano la loro socialità. Italia in controluce. Se tu sarai vero tra chi non lo è mai, se il vento di strada sarà quel che vuoi. Massimo Priviero, cantautore, musicista, autore di molti album di impegno civile. Tu hai realizzato negli ultimi mesi un libro e un disco doppio, un disco che racchiude un po' le cose migliori che hai realizzato. Tu, peraltro, hai realizzato musica prodotta da un musicista straordinario come Little Steven. Hai iniziato sul solco di Springsteen. Guarda, l'album che è uscito adesso è in realtà l'album live di un gran concerto che abbiamo fatto più o meno l'anno scorso, che racchiude le cose migliori oltre ad alcuni inediti che abbiamo fatto in studio. Il rock e la poesia, come sai, sono la mia caratteristica peculiare, quindi questa fusione tra energia, tra impatto forte, diciamo, e quindi molte chitarre, molte, e dall'altro invece il bisogno di liricità, il bisogno di scavare nei testi, il bisogno di fare in modo che rock and roll, come nella sua migliore tradizione, racconti altro che non siano le vicende dei bar, ecco. E che cosa raccontano le tue canzoni? Ma sai, in generale c'è un'idea, un filo conduttore che le lega, che è un'idea di umana resistenza, che è quindi di difesa di certi valori. Quindi andiamo al discorso che facevi tu prima, ci sono dei tratti anche tra virgolette sociali, e quindi il desiderio, per esempio, di raccontare storie piccole. Non mi sono mai fatto problemi nel passare da canzoni che parlano di amicizia forte o da solitudini forti, e ugualmente raccontare storie, per esempio, di alpini durante la guerra di Russia, quindi scavare nella memoria, raccontare le storie di quei soldati e contadini di cui siamo figli, di cui spesso abbiamo dimenticato il valore. Il rock e la musica in generale hanno questa forza per chi scava dentro, che è quello di non avere nessun tipo di muro, nessun tipo di preclusione verso i temi che decidi di affrontare, le storie che decidi di raccontare. Scavare nella memoria attraverso il rock è un mestiere straordinario, ma un mestiere che in Italia sembra non andare più di moda. Bah, sai, questo è un discorso un po' complicato da fare. Diciamo che ognuno fa la sua strada, ognuno ha certe necessità. Io non credo affatto, per esempio, che il successo, per come è comunemente inteso, sia un valore. Io ho avuto degli album che hanno, per esempio, parlando in questi termini, ho avuto degli album che hanno scalato classifiche, ho avuto dischi invece di stranicchia, ho avuto album che, come gli ultimi che sono andati, che stanno andando bene, ma non è questo la chiave di volta. Ognuno fa la sua strada, ognuno difende i propri valori, le cose in cui crede. Che poi ci siano 100, 1000, 10.000 persone, questo diventa, non dico che è un aspetto secondario, perché non è neanche corretto dire così, ma diventa una cosa collaterale rispetto al viaggio che fai, rispetto alle carezze che cerchi di dare alla gente che viene ai tuoi concerti e che te le ritorno indietro in termini di sorriso, di emozione che riesci a condividere. Le strade dunque della musica e le strade della poesia, ma anche un spettacolo che stai portando in giro per l'Italia dedicato proprio ai reduci della Armir, l'armata italiana distrutta, diciamo, nella incredibile e poco edificante campagna russa. E che cosa vuoi raccontare attraverso quelle storie? Prima di tutto una lezione di vita che abbiamo avuto da quei soldati contadini, da quei ragazzi, di cui pochissimi ormai sono ancora sopravvissuti. E c'è questo spettacolo che facciamo in teatro, che è uno spettacolo di teatro e di musica civile, dove ci sono le canzoni che ho scritto, e c'è anche uno scrittore che si chiama Roberto Curatolo, che alterna le mie canzoni sui racconti. C'è bisogno di memoria, ovviamente, da un lato, e dall'altro il fatto di riconoscersi in termini di valori. Io credo che, come ti dicevo prima, siamo figli di quella gente, nella loro forza interiore, nella loro bellezza, ma in quella guerra assurda, mandati, come ben sappiamo, a farsi ammazzare, eccetera, eccetera. Però c'era dentro quella storia di quei disperati una grandezza che li rendeva probabilmente la migliore gioventù che c'era in Italia in quell'epoca. Dopodiché ci posso aggiungere solo un'altra cosa: ho avuto la fortuna di frequentare Mario Rigoni Stern, per esempio, e di essere legato alla Fondazione Revelli, per cui a degli scrittori grandissimi che ha scritto delle pagine bellissime su quell'esperienza. E ti aggiungo solo un'ultima cosa nel ricordare che alcuni di quei sopravvissuti ebbero anche la forza alla fine, ritornati scampati per miracolo e per loro forza, ebbero anche ancora l'energia per una volta a casa per risalire la montagna e fare un altro tipo di battaglia per la nostra libertà, per la nostra democrazia, per la nostra giustizia. Splenda il sole per chi vive al buio ai lati di una città. Splenda il sole per l'innocente in cerca di verità. Splenda il sole ai piedi del mondo per chi voce più non ha. Splenda il sole. Splenda il sole. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Sul nostro sito radio24.it potete scaricarvi tutte le puntate andate in onda dal 18 gennaio. Per comunicare con noi, il gruppo su Facebook è sempre attivo, Radio 24 Italia in Controluce. La nostra mail controluce@radio24.it. Lunedì 7 giugno alle 6:30 su Radio 24.